Benvenuti, welcome, ci prenda a dimanche, la serata di domenica, per chi parla francese, ma la serata tutta è solo italiana. E allora, 1, 2, 3, siamo tutti fratelli d'Italia. Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sentito. E allora? Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno. No, no, no, no. Fammi precisare una cosa, un momento, vedi? Io qui, sì. Non sono io. Cioè nel senso, voglio dire che non sono io Alberto, sì. Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito? Come le convinci tu le donne? Nessuno. sentito, sai, Alberto, ti ho sentito. Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare. E poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo. Ha il respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo. Ma non so se poi parlo o lasciarlo soffrire. L'importante è... No, dico, come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito? Ah, ho capito, cioè tu parli d'amore per tutti quelli che magari non osano farlo. Come le convinci tu le donne? Esatto. Nessuno. dicevi già. Thank you. io ti chiedo.

qui chiama Gabbiano, rispondete, posto radio 22.